ormai un ritardo quasi istituzionalizzato da quando manca Marco per Cialtroni nello spazio. Un saluto ascoltatori e ascoltatrici, la trasmissione di informatica, diritti digitali e software libero che va in onda ogni mercoledì alle 12.40 su Radio Onda d'Urto. Ciao Alessandro. Ciao a tutti. Oggi andremo a occuparci di diverse cose, andremo soprattutto a dare un parecchi aggiornamenti di cose che sono successe in questi giorni, ancora diversa roba sul riguardo al DRM, i sistemi di controllo, cose carine che abbiamo trovato qua e là, e poi grossa parte dello spazio sarà invece dedicata a Serpicanaro, la licenza e che abbiamo già presentato la settimana scorsa fuori brevemente all'interno di Cialtroni nello spazio e poi durante le azioni che si sono tenute durante la settimana della moda milanese, e ne andremo a parlare più nei dettagli più tardi. Prima invece iniziamo con alcune diciamo così notizie che riguardano il mondo dell'informatica e in particolare il software libero, i rapporti con Linux e quello che si muove rispetto alle licenze. Prima notizia in realtà non riguarda il software libero, però riguarda i videogames. Una notizia così che vi segnaliamo: è stato pubblicato un videogame per gli Marines, per i soldati statunitensi, che impareranno tramite questo videogioco le gestualità e anche alcuni convenevoli tipici delle zone dell'Iraq, con anche una variante per quanto riguarda l'Afghanistan. Quindi insomma impareranno per comunicare con gli iracheni attraverso un videogame. Comunicare a gesti. A gesti, sì, certo. Era la parte divertente. La parte divertente è questo. Per l'obiettivo, si legge nel comunicato, è quello di formare soldati per evitare che alcuni gesti o parole possano essere fraintesi come azioni offensive. Quindi insomma potete andare con i Kalashnikov e con i blindati e con i carri armati, però se sapete muovere bene le mani probabilmente sembrerete tanto bravi e cari. Questo più o meno la filosofia che sta dietro questo videogioco. E poi continuiamo a parlare invece di censura per quanto riguarda la Cina. L'abbiamo parlato spesso negli ultimi anni, la censura online in Cina non ha ultimamente non tenta soltanto di annientare quelle che sono, diciamo così, degli spiragli di aperture democratiche che ci sono nel paese. Abbiamo visto diversi blog di giornalisti indipendenti che sono stati chiusi proprio anche quando attaccavano il governo, diciamo così, in senso più normale a cui siamo più abituati. Invece adesso i censori pechinesi si scagliano contro l'ortodossia maoista, quindi dopo l'allontanamento da parte del governo rispetto a quella che era sicuramente la filosofia che stava alla base della rivoluzione del 49 guidata da Mao, adesso si arriva a censurare anche coloro che vorrebbero insomma parlare e continuare a produrre i discorsi che erano stati fatti all'epoca e i documenti che erano stati pubblicati all'epoca. Quindi insomma dopo aver abbandonato, diciamo così, quella che era la filosofia di Mao Zedong, che adesso è stata un po' sostituita con un regime molto particolare, che è sicuramente una delle caratteristiche è la corruzione e la forza della burocrazia, adesso ci si scaglia anche non solo contro chi chiede più democrazia, ma anche chi chiede il ritorno alla filosofia originaria. In particolare sono stati chiusi siti web di lavoratori cinesi, non lo pronuncio in cinese perché non sono assolutamente capace, e del Partito dei Comunisti, che erano stati appunto sono stati eradicati da internet senza alcun motivo se non quello di voler in qualche modo riportare la filosofia maoista all'interno della discussione del dibattito politico. E poi arrivano anche notizie inquietanti rispetto a quello che accade sempre in Cina. Beh, la Cina, grande laboratorio di censura, peraltro degnamente copiato e imitato da altri stati, addirittura utilizzando gli stessi strumenti come gli Stati Uniti e Arabia Saudita, insomma, si prende spesso la Cina come esempio perché, diciamo, è un passo avanti rispetto agli altri, ma gli altri non sono da meno. Comunque la Cina, per voce del suo ministro per l'infrastruttura e la tecnologia, fa sapere di aver lanciato il 1 marzo il suo DNS, ovvero la sua infrastruttura di rete che risolve i nomi. Giusto per far capire rapidamente, attualmente i nomi di internet, quindi quelli che vengono scritti www.qualcosa oppure quelli che fanno arrivare le mail chiocciola, sono gestiti da un'agenzia americana. Avevamo parlato l'anno scorso e anche all'inizio di quest'anno dei problemi riguardanti l'ICANN, che è appunto questo istituto che il cui controllo viene un po' conteso, nel senso che era un'agenzia americana che doveva passare sotto controllo internazionale, ma che tutt'oggi rimane sotto controllo americano per scelta espressa degli Stati Uniti. La Cina propone il suo gestore di domini, quindi con le sue estensioni, addirittura con i caratteri differenti, quindi avrà tutta una serie di estensioni, vabbè, per noi impronunciabili, che sarebbero l'equivalente del .com, del .cm, del .edu, eccetera. Sarà possibile utilizzare caratteri cinesi anche nel digitare i link, insomma. Nel digitare i link, ovviamente c'è una tabella di conversione, però questi domini saranno disponibili solo ed esclusivamente all'interno della Cina. E difatti il forte problema di questa introduzione è che si va a minare una delle strutture portanti di internet, che è quella appunto della sua globalità. La risoluzione dei nomi e gli indirizzi internet sono validi e seguono l'istante in tutto il pianeta. L'introduzione di questo secondario o comunque secondo sistema di gestione di domini creerà fondamentalmente due internet, non a livello di indirizzo numerico ma a livello di nome, e sicuramente le problematiche saranno numerose. Per il momento queste sono solo accessibili dall'interno della Cina, però diciamo che può costituire un modello anche in eventuali scenari futuri di guerre globali o cose del genere, che potrebbero essere sicuramente copiati e riutilizzati. Per quanto riguarda la censura, invece, torniamo a parlare del caso italiano, perché c'è stata una prima vittoria per il peer-to-peer riguardo i due siti che erano stati coinvolti nella vicenda del calcio Sky. Ne avevamo parlato, mi sembra, all'inizio di gennaio, se non mi sbaglio, sì. Forse un po' prima. Coolstreaming.it e calciolibro.com erano stati sequestrati perché davano dei link a dei siti cinesi che trasmettevano tramite una complessa tecnica di visione collettiva basata più o meno su una variante di torrent che permetteva di collegarsi alle televisioni cinesi e di guardare senza audio le partite televisive del campionato italiano che venivano trasmesse da Sky. Ecco, c'è stata una prima vittoria per quanto riguarda i due siti, perché il GIP ha detto che le opere delle partite che venivano trasmesse non erano opere dell'ingegno, e quindi la teoria di Sky che venisse violato un'opera dell'ingegno, nel senso che era stata considerata una partita opera dell'ingegno, nel senso che c'è un regista, c'è una troupe televisiva, e quindi c'è un tentativo di, diciamo così, di fare un'opera dell'ingegno. Ma in realtà questo è stato negato da parte del GIP, dicendo che il commento audio era assente in queste partite e quindi non si tratta di un'opera dell'ingegno. Quindi probabilmente i siti che adesso sono stati dissequestrati hanno vissuto sicuramente una vittoria, però resta il fatto che Sky potrà riproporsi con un procedimento civile contro questi due siti e fare appunto riferimenti fare una richiesta di danni. Questa possibilità è stata contemplata dallo stesso GIP. Sia Sky che Mediaset e anche la Lega Calcio hanno espresso preoccupazione, infatti segnalando la preoccupazione per quella che è stata la perdita di controllo sulla trasmissione delle partite di cui loro avevano acquistato i diritti. In particolare Cool Streaming si è definito soddisfatto, anche perché era un sito che più che altro era dedicato al tema delle IPTV, cioè questa complessa tecnica di streaming che stavo accennando prima, che funziona basata su protocolli simili a BitTorrent, che permettono a tante persone di guardare in diretta una partita con qualche istante di ritardo, mettendo a disposizione una parte della propria banda per l'upload, e quindi sostanzialmente andando a superare il problema tipico delle televisioni via streaming, che è quello del fatto che si ha poca banda a disposizione. Andiamo con un brano musicale. Allora, sempre dal sito Yamendo. Stavolta ci ascoltiamo, vabbè, classificato come reggae, in realtà è più uno ska sullo stile degli Scapè. Si chiamano Chili 70, dal loro album omonimo, e questa è Allende. Adam è stato. Tipo la pista, obsessed. E andiamo a parlare un attimino di alcune denunce che sono arrivate attraverso il Usenet e svariati forum. Pare che Libero Wind stia filtrando le applicazioni peer-to-peer in maniera non trasparente, nel senso senza dichiararlo, però molti utenti lamentano un rallentamento o addirittura un arresto totale del traffico internet quando aprono applicazioni peer-to-peer. Dal canto suo Wind smentisce ogni cosa. Libero. E Wind, Libero, vabbè, sono uguali tanto. Smentisce ogni cosa e sostanzialmente si è già protetta attraverso i contratti che ha stipulato, in cui specifica chiaramente che è autorizzata la navigazione HTTP, quindi il normale web, le mail nei vari protocolli di posta e l'FTP, e non fa assolutamente menzione all'utilizzo di, cioè comunque la possibilità di utilizzare protocolli tipo peer-to-peer. Fa particolarmente specie perché tra questi protocolli che generalmente vengono considerati diciamo utili al file sharing ce ne sono alcuni, come quello di BitTorrent, che è molto usato anche da normalissime aziende per distribuire il loro contenuto senza essere sovraccaricate da un eccessivo numero di richieste, come ad esempio fanno le distribuzioni di Linux. E torniamo anche sul caso di RaiClick. Avevamo già accennato sul fatto che RaiClick, per il portale della Rai che permette la visione anche online dei contenuti della televisione di Stato, per produrre i legami della, scusate, non i legami, scusate, per trasmettere su internet i contenuti relativi alle Olimpiadi, aveva attivato uno streaming che avveniva solo con Windows Media Player, dopo essersi appoggiati ad una tecnologia di tipo DRM, quelle che controllano insomma in qualche modo e comunque comportano delle limitazioni. La limitazione in questo caso era stata chiesta come mai da Punto Informatico, e RaiClick ha risposto per quanto riguarda la questione appunto dell'utilizzo di tecnologie di DRM, dicendo che è stata proprio imposta dalla European Broadcasting Union con precise indicazioni del Comitato Olimpico, che queste regole erano anche la geolocalizzazione degli accessi, ovvero che ogni nazione potesse trasmettere unicamente all'interno del proprio territorio nazionale i contenuti olimpici, e quindi comportando che gli utenti con IP esteri dal 10 al 28 febbraio non potessero avere accesso ai video, e poi anche una sorta di protezione per evitare la ritrasmissione fraudolenta. Questo era stato possibile facendolo solo con appunto queste estensioni di Windows Media Player che controllava da che paese arrivavano le persone, ma questo ha anche escluso tutti gli utenti e tutti i browser tutti gli utenti con browser o piattaforme diverse da Microsoft, e ha bloccato anche tutti coloro che volevano vederle da fuori Italia. Quindi per esempio un cittadino italiano che si trovava negli Stati Uniti e che voleva sentire le Olimpiadi attraverso un commento italiano non poteva farlo tramite il portale della Rai, per precisa decisione del Comitato Olimpico. E giusto per segnalare questa cosa, che vabbè, si sa da tempo ma ormai la data è prossima, il 16 marzo la Sardegna e la regione Valle d'Aosta spegneranno le trasmissioni tradizionali, quelle non digitali. In pratica in Sardegna e in Valle d'Aosta non sarà più possibile ricevere la TV con la normali apparati televisivi, ma sarà necessario avere il digitale terrestre. Fa particolarmente specie perché insomma questo mezzo di trasmissione è nuovo, è ancora in diffusione, non tutti ce l'hanno, e sia il governatore della Sardegna Soru che la di Consum hanno espresso notevoli perplessità per questo distacco anticipato rispetto al resto delle regioni. Giusto per dare un'idea molto breve di quello che dice di Consum, allora, la RAI dichiara di non poter garantire a tutti il segnale digitale. Già qui vuol dire che spegnendo la trasmissione tradizionale ci sarà qualcuno che non sarà più in grado di ricevere la RAI a casa. Allora, i numeri dicono che più del 40% dei cittadini in Sardegna non ha il decoder, quindi oltre a quelli non coperti dalla RAI ce ne saranno il 40% sono pure privi di decoder, quindi non lo potranno comunque ricevere né RAI né Mediaset, che sono gli unici due attualmente a diffondere il segnale digitale. Fa notare giustamente a Adiconsum che lasciare due regioni senza coperture televisive, per quanto valgano, ma comunque senza coperture televisive a metà della campagna elettorale non è esattamente una furbata. E un'altra serie di commenti riguardanti la tecnologia digitale terrestre e il rapporto con l'Europa. Infatti non è l'unico caso, quello dell'Italia, che vedrà la scomparsa del digitale, dell'analogico, in due regioni nel marzo del 2006, tra 15 giorni, mentre invece nel resto dell'Europa si parla del 2012, cioè nel senso no, 15 tra 6 anni, sai, forse dire. Ma cosa più incredibile forse è che la maggior parte dell'Europa ha un po', diciamo, abbandonato, ma sicuramente sottostimato l'importanza del digitale terrestre rispetto alla banda larga, e gli investimenti sono andati in quella direzione in molti casi. E guarda caso, l'unico servizio che effettivamente funziona, che oggi digitale terrestre dà in più rispetto alla televisione normale, sono i servizi a pagamento di Mediaset. Questi pochi minuti che mancano cambiamo decisamente argomento, Alessandro, e torniamo su una questione di cui ci eravamo già occupati la settimana scorsa, ovvero la licenza di Serpi Canaro, che avevamo accennato sia durante questa trasmissione sia nei giorni della settimana della moda, in cui ci sono state diverse azioni che abbiamo più o meno seguito anche come Radio Onda d'Urto. C'è stata la presentazione del marchio collettivo Serpi Canaro, accompagnato da una licenza molto particolare. È sicuramente il primo caso mondiale in cui viene depositato un marchio per in un certo modo liberarlo. Chiedo a te di parlare di questa questione perché l'hai seguita molto da vicino, quindi magari facciamo proprio un'intervista a Alessandro, insomma. Allora, vabbè, ne avevamo già parlato la volta scorsa, un'introduzione era stata fatta, poi c'è stata l'intervista di Stella, quindi diciamo che l'introduzione generale già oggi volevo andare a vedere più che altro il come è stata fatta questa cosa. Allora, vabbè, i passaggi sono stati questi: la licenza è di fatto quello che viene definito a livello nazionale un marchio collettivo, più in generale è un marchio di garanzia. Ovvero è stata creata un'associazione che si chiama Associazione Serpi Canaro, di cui con un suo statuto molto particolare, in cui non ci sono figure predominanti, non esiste un presidente ma solo un segretario che quindi fa le funzioni, e per il resto è di tipo estremamente orizzontale. Quindi diciamo questa è l'associazione che sta dietro, che possiede fisicamente, cioè tecnicamente, il marchio. Il marchio appunto è un marchio di garanzia. I marchi di garanzia funzionano a differenza dei marchi tradizionali, perché in modo differente. Il marchio tradizionale può essere utilizzato solo dall'ente, dall'associazione, dalla ditta che lo registra, per siglare o identificare i propri prodotti, quindi è sostanzialmente una forma di brevetto ideologico che permette di garantire alla ditta un surplus dato dalla qualità dei suoi prodotti, almeno questo in linea teorica. Il marchio di garanzia invece può essere utilizzato da chiunque sottostia alla licenza d'uso. E attraverso questo strumento, che è, diciamo, della legislazione normale, è stato inserito questo marchio, che si intende marchio liberato, perché sostanzialmente dà dei vincoli esclusivamente di due tipi: uno legato al tipo di impiego al tipo di lavoratori impiegati nelle produzioni industriali come forma di tutela. Per il momento abbiamo deciso di fare riferimento ai contratti collettivi nazionali, anche se sono in lavorazione una serie di analisi sulle diciamo direttive o convenzioni internazionali per poterne estrarre una sintesi che vada un po' al di là dei contratti collettivi, però ovviamente questo è un lavoro che richiederà più tempo e naturalmente la licenza sarà aggiornata. La seconda parte della licenza invece riguarda la modificabilità, ovvero chi decide di marchiare un prodotto attraverso questo marchio collettivo, comunque nel marchiarlo, sottostando alla licenza, dovrà permettere a chiunque di riprodurre, modificare, duplicare tutto il materiale riguardante il design, l'ideazione del prodotto, che possano essere cartacei, cartamodelli per quanto riguarda gli abiti o progetti, che ne so, tutto ciò che riguarda l'ingegnerizzazione, l'ideazione dei prodotti. E questi sono i due fronti che avevamo già citato l'altra volta su cui lavora il marchio, e in questo senso si intende marchio liberato, perché invece di bloccare e blindare il contenuto che viene siglato con il marchio, lo rende disponibile a tutti, ed è sostanzialmente un'evoluzione nel mondo della produzione industriale dei concetti che ci sono oggi nel mondo della produzione d'autore in generale, che possono essere il software come come la produzione musicale, artistica, testuale, per quanto riguarda le Creative Commons o cose del genere. Sicuramente prende molto da un po' sia delle Creative Commons ma anche della GPL questa licenza, quindi sembra un po' un'evoluzione del mondo materiale di quello che è stato per anni nel mondo dei beat soprattutto. Prende la filosofia è la stessa, anzi direi che si ispira come filosofia molto di più alla GPL, nel senso che come allora Stallman aveva intuito che attraverso il copyright, quindi la protezione del diritto d'autore, si poteva inserire un tarlo nel sistema, perché fondamentalmente la GPL è un tarlo all'interno della protezione del diritto d'autore, perché attraverso lo stesso strumento che blinda il software, in realtà lo protegge e lo diffonde attraverso ne protegge la libertà, insomma. Esatto, perché chiunque riutilizza lo stesso materiale, cioè chiunque utilizza software sotto licenza GPL, deve poi rendere di nuovo disponibile il suo prodotto con licenza GPL. La stessa filosofia è per il marchio Serpicanaro: chi utilizza i progetti o tutto quello che viene messo nella community Serpicanaro deve obbligatoriamente ridistribuirlo sotto la stessa licenza. Quindi con la stessa filosofia dell'effetto di rete del marchio GPL viene presentato questo il marchio Serpicanaro, comunque la licenza legata alla registrazione del marchio. Un'altra cosa, appunto, come dicevo, la licenza, esattamente come le GPL o le Creative Commons, non è fissa, nel senso che vedrà un'evoluzione sicuramente nelle sue parti più complesse, come l'articolo 5 riguardante i prodotti industriali, che richiede una maggiore elaborazione, e quindi prevede una formula del tipo: tutte le modifiche alla licenza dovranno essere sottoscritte da chi aderisce alla licenza, nello stesso modo in cui la GPL dichiara la possibilità, appunto, di registrare evoluzioni della stessa licenza. questo si chiude anche la puntata di oggi di Cialtroni nello spazio. Sentiamo sempre di più la mancanza di Marco, soprattutto per il fatto che si trova in spiaggia in questo momento. Oh. Che è successo? Si è interrotta la sigla. Si è interrotta la sigla. Adesso la fai ripartire. No, non c'è più la sigla. Noi allora salutiamo così con Cialtroni nello spazio senza sigla, la prima volta che succede. E vi diamo appuntamento per la settimana prossima, mercoledì, per poter continuare a discutere di software libero, di licenze e di tutto quello che riguarda l'informatica e le libertà digitali. Ricordiamo il sito internet spazio.circolab.net.